sa che esiste in quei ricordi che non sono necessari. Quanta tristezza che esiste in quei ricordi che non sono necessari. Ma io ora vivo un'altra stagione dove il tempo è lo stesso di un secolo posteriore, di un secolo posteriore, di un secolo posteriore. Troppo distante, troppo distante.